Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Clamoroso furto di immagini ai danni di VIP, una gigantesca operazione di hackeraggio, ha messo in circolazione foto senza veli di un centinaio di attori, cantanti e celebrità, tra loro gli americani Kim Kardashian, Rihanna, Winona Ryder e Mary-Kate Olsen. Alcune hanno subito negato di essere ritratte in questi scatti osè, altre invece hanno confermato la veridicità delle foto, denunciando la violazione della privacy e minacciando azioni legali. L'hacker, il pirata informatico, avrebbe avuto accesso ai file tramite gli account iCloud delle celebrità. La Apple, responsabile di questi account, non ha fatto commenti sull'accaduto. Eh sì, la nuvola ha fatto acqua. Ve lo descrivo per quello che ho seguito ieri, nella giornata di ieri, questa vicenda che naturalmente è rimbalzata subito in rete. Un centinaio di dive americane, avete sentito dal servizio di Sky alcuni dei nomi, Rihanna è la più nota di tutti, ma c'è anche un premio Oscar, Jennifer Lawrence, ma anche altre, tutte belle ragazze, un centinaio, molte molto note, alcune note soltanto al pubblico americano, sono accomunate da un'usanza e probabilmente condividono anche con le donne normali. Hanno dimostrato, perlomeno volevano prova tangibile, che anche loro ce l'avessero, come appunto ha immortalato nel suo più celebre gesto Laura Pausini quest'estate in un concerto spagnolo, aprendo la sua vestaglia e mostrando la sua ben definita peluria intima. Queste signorine a un certo punto evidentemente facevano quello che tutte le donne immagino facciano, e per questo voglio conferma in questa trasmissione. Avendo anche dei book ricchi di foto in tutte le pose, in tutti gli atteggiamenti, avevano una serie, un gruppo di foto che si facevano da sole davanti allo specchio, assieme ai loro partner, di non grande gagliardia e dinamicità da quello che ho visto, sì, perché queste foto ieri giravano naturalmente in molti siti, questa mattina sono andato a ricercarle, già sono sparite, prova che in parte ci sia sicuramente qualcosa di vero. Facciano quello che fanno le ragazzine su Facebook, quello di cui parlano i giornali, cui moralisti stracciano le vesti, Dio mio, dove andremo, l'esibizionismo, ma io sfido chiunque abbia avuto una macchina digitale in mano non sia venuta la tentazione di fotografarsi laddove non batte il sole. L'hanno fatto tutti prima o poi, una volta almeno nella vita, chi è che non l'ha fatto? Il fatto è probabilmente per le ragazze, per le signore, per le donne, anche una maniera per avere un giusto, lecito, non ci trovo nulla di scandaloso, alimento la loro vanità, si sentono particolarmente belle, si vedono con un punto di luce che funziona. Io ieri ho fatto una piccola indagine personale un po' da amica, mi ha detto: ma sì, sai, ogni tanto capita, mi trovavo in un bel albergo, in una bella stanza, mi guardavo allo specchio, mi sono sentita bella, mi sono fatto una foto del culo. Dico: ma che ne hai fatto? Ma ce l'ho in un vecchio telefonino, adesso andrò a cercarla. Comincia il panico. Sì, perché le dive, le foto le hanno messe tutte nel cloud, iCloud, anzi, perché qua è la Apple che è in parte coinvolta, è la nuvola dove tutti possono mettere tutto. Appena tu ti compri un computer, ti prendi uno smartphone, dico: vuoi metterlo nella nuvola? Io non ho mai messo nulla nella nuvola, sai, perché non lo so, non mi piace l'idea, mi piace avere tutto sotto mano. Poi non credo di aver nulla da nascondere, sinceramente, perché ho passato l'età e ho passato l'esto per fare di queste cose. Ma questa missione vuole essere terapeutica e allo stesso tempo didattica per tutte coloro che hanno avuto tentazione di farsi la foto nel punto luce giusto, nel punto di abbruzzatura giusto, che si sentiano sexy, si sentiano belle, oppure come hanno fatto le dive in alcuni filmati, c'è una di queste divertente, cioè il fidanzato addormentato gli tira giù le mutande e gli fa una foto al mosciacchione, che è divertente, se fa ridere, non c'è nulla di strano, la rende umana. Ma mentre per le dive questo sarà senz'altro motivo di umanizzazione, quindi di gloria, tutti diranno: ma vedi che belle, che brave, anche loro come noi, anche loro si fanno le foto pelose davanti allo specchio, quindi sono come noi. Se succede a un'impiegata, a una avvocatessa, a una commercialista, a una studentessa che cominciano a girare in rete le sue foto davanti allo specchio, beh, è un po' difficile da giustificare, dato il punto di vista beghino e parrocchiale generalmente nel nostro paese che queste foto sono qualcosa di illecito. Ecco, quindi pensateci in che maniera, lo chiederemo oggi a delle persone di consigliarci e farci capire perlomeno quello che è successo. 800 24 0024, che ne dite degli autoscatti erotici che vengono fatti nascosti, chissà perché, chissà per quale ragione? Hollywood nel mirino degli hacker, una rovente serie di autoscatti trafugati da un attacco di pirateria digitale, uno dei più grandi ai danni delle celebrities, dicono i media americani. Perché stavolta c'è praticamente tutto lo star system femminile hollywoodiano, oltre 100 le attrici e modelle derubate dei loro scatti osè e privatissimi. La star più violata è lei, la venente e giovanissima attrice da Oscar Jennifer Lawrence. Della protagonista di Hunger Games sarebbero state pubblicate una sessantina di immagini, alcune in bikini, altre senza. In principio fu Scarlett. Qualche anno fa il lato B della Johansson, ritratto dal suo telefonino, fece il giro della rete. Mesi di ricerche e indagini, fino all'arresto del suo hacker, condannato a 10 anni e a un risarcimento di quasi $70,000. Come lei, altre star, tra cui Mila Kunis e Christina Aguilera. 800 24 0024, se accade a loro potrebbe accadere a chiunque, e se accade cosa potrebbe succedere? Ma probabilmente niente, nessuno muore, nessuno si taglierà per questo le vene, ma probabilmente è qualcosa da capire, da gestire. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Ben trovato, professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. Ora, al di là delle considerazioni di tipo social-psicologico, da un punto di vista tecnico, secondo te cosa è accaduto? Essendo tutte americane, viene a pensare che normalmente le dive americane useranno tecnologia Apple e avranno, come accade più negli Stati Uniti che alle nostre latitudini, dimestichezza nel usare come deposito dei loro file l'iCloud. Ma molto oralmente non ci hanno semplicemente pensato, appunto, nell'impostazione di iPad, iPhone e tutti questi strumenti. A un certo punto il sistema chiede se vuoi usare iCloud e probabilmente l'hanno fatto in automatico, senza pensare effettivamente quello che stavano facendo. Così facendo, ovviamente, ogni foto scattata veniva memorizzata nell'iCloud e resa disponibile su tutti i loro device. Appunto, una cosa abbastanza comoda. Però non si immaginava francamente che iCloud fosse nel complesso così debole, insomma, perché aveva un unico punto, insomma, hanno trovato un punto di vulnerabilità abbastanza pesante, l'hanno immediatamente sfruttato gli hacker. Non era una cosa particolarmente complessa il tipo di attacco che hanno sferrato, era strano che l'Apple non ci avesse pensato, questo sì, piuttosto. Perché è stato semplice entrare nella, bastava avere l'account di bastava avere, in realtà sì, attraverso un servizio, il servizio che permette di rintracciare gli oggetti Apple quando vengono dispersi, si poteva sferrare conoscendo l'indirizzo di posta elettronica, si poteva sferrare quello che si chiama un attacco di forza bruta, cioè un programmino provava tutte le password possibili finché non si trovava quella giusta. Noi tutti usiamo password che sono mediamente molto deboli, perché per comodità fondamentalmente. Anche perché alla fine ne avremo 15-20 a testa che usiamo sempre, qualcosa esatto. Bisogna che ognuna ricordi l'altra più o meno, un po' difficile. Ognuna che ricordi l'altra, che non siano anche troppo lunghe da inserire, no? È chiaro che una password lunga 64 caratteri sarebbe molto sicura, però immettete una password di 64 caratteri su un iPhone o su un iPad, insomma, è effettivamente una cosa molto scomoda. Tanto più che questa operazione viene richiesta a volte molto più di una volta al giorno, mentre si usa un po' il sistema. Quindi sicuramente la debolezza anche delle password che vengono scelte da tutti noi utenti e non da questi utenti in particolare, effettivamente ha facilitato il compito di queste persone che hanno attaccato il sistema. Ecco, una volta entrato nel cloud, però questa è la parte dell'operazione che più hanno dovuto fare una cena, non credo che queste avessero soltanto, gli scatti sono molto selezionati, sono abbastanza omogenei, uno o l'hacker era convinto che se andava lì pescava giusto e pensava che prima o poi trovasse qualcosa di giusto, o naturalmente avevano dei file segreti, una cartella con scritto cose zozze da non guardare, qualcosa del genere. No, beh, teniamo conto che la dimensione di iCloud non è enorme, sono 5 giga nella sua dimensione minima standard, che penso sia quella utilizzata da tutti, quindi in realtà scaricare 5 giga con una rete veloce non è un compito particolarmente oneroso dal punto di vista della banda. Non sappiamo quanto a lungo sia stato serrato questo attacco, perché evidentemente Apple non se n'era accorta, quindi probabilmente è stato un attacco che è stato portato avanti nel corso di più tempo. Apple immediatamente, poche ore dopo che queste foto sono state rese pubbliche, o meglio che è stata resa nota la vulnerabilità tramite un sito, ha messo una patch. Adesso questo tipo di attacco non si può più sferrare, però è anche possibile che l'attacco sia stato portato avanti per giorni, se non per settimane, addirittura per mesi. Perché adesso quello che si teme, allora, naturalmente queste foto dopo 10 minuti che era uscita la notizia già circolavano in rete, almeno una sessantina ne circolavano in rete, ma su 100 dive in teoria ce ne sono di più. Premetto che per quello che ho visto io non è niente di sconvolgente, ripeto, se vogliamo fare un'analisi di tipo sociologico, diciamo che la tentazione di farsi degli autoscatti, tutti omogenei, tutti uguali, tutti nelle stesse pose, passa in maniera uniforme dalla studentessa di scuola media fino alla grande diva, sono le stesse foto, si immagina il set, ti fai la doccia, stai in bagno, ti senti carina, ti senti bella, ti vedi sexy, ti fai una foto col telefonino, fine, non mi sembra che si aprirà. Apriranno le porte del cielo e usciranno i diavoli con i forconi per fare vendetta, non è niente di che. Però è qualcosa da considerare da qui ai tempi futuri, che anche una nostra area di lecita privatezza in cui possiamo mettere quello che ci pare, perché ognuno ha diritto, poi uno può giudicare, è sbagliato, è giusto, è narcisismo, fatti di chi vuol giudicare. Ecco, bisognerà cominciare a pensare che questo diritto alla propria riservatezza non possa essere più considerato. Ma più che altro dobbiamo tenere sempre in mente la massima generale, secondo me, dell'uso dei social network e della condivisione, ossia non mettiamo mai in rete, neanche in maniera privata, cose che riteniamo imbarazzanti. Insomma, queste foto le fanno tutti, sembra, ma le teniamo sul nostro hard disk. Sul nostro disk non è impossibile vivere il nostro disk, per carità, però diciamo che è molto molto più complicato. Ci vuole almeno un'effrazione fisica, qualcuno deve entrarti in casa, ecco, questa è la differenza. Sì, no, non solo entrarmi in casa, insomma, si può infilare qualcosa sul mio computer. Ah, ecco, sì, il computer in rete, certo, se il computer in rete, certo, sì, nel momento che il computer in rete, insomma, posso violarlo in vari modi, però anche qui, se lo metto nel mio hard disk, magari queste... Io pensavo a un hard disk, diciamo, come periferica, in cui metti tutte le zozzate e lo stacchi. Posso anche fare qui lo stacco, un hard disk USB che stacco. Andrea, fermiamoci un secondo, devo dare il traffico, poi riprendiamo, stanno arrivando telefonate, 800 24 0024, al di là del gesto in sé, mi piacerebbe anche che qualche ascoltatore o ascoltatrice mi dicesse i meccanismi per cui queste cose si facciano, come salvaguardate i vostri file che considerate riservati. Melog, cronache meridiane. Otto zero zero ventiquattro, stiamo trattando della vicenda delle 100 dive americane che hanno visto scoperte le loro foto intime personali private perché qualcuno è entrato nell'iCloud, cioè nella nuvola in cui conservavano queste foto, e le ha diffuse in rete. Scrive il solito ascoltatore sacrestano che non manca mai: non capisco chi si fotografa il culo e poi si preoccupa di essere scoperto. Uno può fotografarselo ad uso personale, privato, delle persone con cui vuole condividerla, non con il mondo intero, sembra un lecito diritto, a meno che lo non giudichi un atto riprovevole farlo. Poi altri mi dicono, dice, il problema è che il cloud ormai avviene in automatico, dai dispositivi mobili come destinazione di backup automatici, spesso la gente non lo sa, è vero, se ti rubano, ti rompi un telefonino di alcuni sistemi operativi, la cosa bella è che se sei iscritto nella maniera giusta, te ne compri un altro, immediatamente ti si ricarica tutto quello che avviene nel vecchio telefonino, quindi questa roba da qualche parte sta. Michele, buongiorno. Buongiorno a te Nicoletti, mi senti? Sì. No, mi scuso perché ho poca voce, volevo dire due cose sostanziali. Uno, io ho aperto, dopo, io sono utente Apple da più di 3 anni, ho aperto il cloud una settimana fa proprio perché non mi fidavo e appunto ieri sera mi è preso il panico. Però, perché c'è robaccia dentro, il tuo cloud c'è roba zozza? Assolutamente, no, ma ce la metterei senza problemi, io non mi vergogno. Però ascolta, te come sai, tutto quello che hai detto è verissimo, mi sono perso gli ultimi 10 minuti perché aspettavo, non so se lo avete già detto, ma lo streaming e tutte le altre cose sono impostabilissime da qualsiasi dispositivo, cioè se le dive sono andate e l'hanno violato non è una bella cosa, ma lo streaming lo puoi annullare, basta non caricare le foto sullo streaming, è finito. Ma evidentemente loro hanno seguito annullato la procedura di default, hanno comprato il telefonino o... Sì, infatti quella è un'altra cosa che mi stava molto sulle palle, perché non è proprio obbligatorio, però la Apple su qualunque dispositivo fa di tutto per farti scrivere. Sì, te lo chiedo ogni 5 secondi, io come accendo esatto, il computer bravo. Lo metto. Per principio non l'avevo fatto, però è talmente comodo proprio per aggiornare tutte le rubriche, eccetera, che alla fine l'ho messo quando ieri sera hanno detto che me lo violavano, ripeto, poi io li perdo questi dispositivi, che non me ne frega assolutamente niente, non è che c'è niente importante. Però insomma, diciamo le cose come stanno, insomma, se te le tue foto non le carichi, nessuno le vede, dipende tutto dalle impostazioni. Tant'è vero, io avevo levato il streaming foto e per mandare 2 giorni fa delle foto a una mia amica ho dovuto riattivarlo, punto. Federico, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, guardi, io vorrei dire questo, io sono un utente Apple da tanti anni, sono al terzo. Sì, devo dire adesso onestamente, non perché voglia... il cloud ce l'hanno un po' tutti, non è già solo però, in questo caso è toccato Apple, sì, certo. Diciamo Apple forse sono stati i primi a introdurlo, sì. Ma non è questo. Io non uso l'iCloud per le immagini, è molto comodo per altre cose. Il backup del telefono lo faccio sul PC perché mi sembra più comodo così, anche più sicuro, ma più sicuro, più veloce. Ma il discorso di tenere le immagini sulla cloud io l'ho disattivato non per una ragione di sicurezza, ma per una ragione di comodità o di scomodità, nel senso che a cosa mi serve avere tutte le foto che scatto su tutti i dispositivi, andrò a scegliere quelle che voglio mettere sul PC, ce le metto da solo. E poi tante volte le foto si fanno quando si è in viaggio, con il roaming all'estero. Se io non mi ricordo di disattivare l'iCloud, ogni foto che faccio mi costa un patrimonio. Li prosciuga il credito del telefono, questo è chiaro, questo. Allora, Andrea Rossetti, alcuni punti sono tutti fuori. Innanzitutto, la vicenda che forse tutti non sanno, che alcuni telefoni con alcuni sistemi operativi, ma penso pressoché tutti, la cosa bella è che se te lo rubano ti sparisce, fai rinascere, risorgere immediatamente il nuovo telefono proprio perché sta in un cloud. Sì, sì, anche recentemente proprio Google Android, che è di Google, insomma, sui sistemi Android appunto hanno introdotto un sistema molto simile a quello di Apple, permette di mandare nel cloud anche le foto ogni volta che vengono scattate. Posso scegliere ovviamente come mandarle nel cloud le foto, ad esempio non sono obbligato a mandarlo su rete mobile, ma posso mandarle la prima volta che mi connetto a una rete wifi in maniera da non spendere soldi. Sono molto modulabili, molto flessibili e molto interessanti. Però bisogna lavorarci un po' per capirli. Sì, un po' di più, certo. Senti, altra cosa, se vogliamo trarre anche delle conclusioni non soltanto tecniche a questo fatto, è sulla percezione dei propri spazi privati. Certo. Tu hai fatto uno studio, mi sembra un mese fa, qualche mese fa, con la tua facoltà. Mese fa con il centro Tech and Law abbiamo promosso questa indagine che riguardava soprattutto gli studenti, cioè quindi giovani in età universitaria, e ci siamo resi conto che molto spesso le persone preferiscono la facilità d'accesso ai dati che hanno sui telefonini alla sicurezza. Cioè abbiamo scoperto che molti giovani, quindi tra i 20 e i 25 anni più o meno, non impostano ad esempio password sul loro telefonino, quindi nel momento in cui il telefonino venga rubato, lo smartphone venga rubato, una volta acceso si può accedere a tutti i dati che sono conservati lì dentro, perché comunque appunto viene sempre preferita l'immediatezza alla sicurezza. Bisogna anche dire che molti studi mostrano, cioè hanno dimostrato ormai che le password come sistema di sicurezza stanno diventando, non sono più sufficienti in qualche maniera. Sì, la password, diciamolo che con poco sforzo la password è abbastanza violabile. Però si pone un altro problema da qui al futuro, che è anche materia tua, oltre proprio l'aspetto tecnico. I confini, la definizione, l'oggettiva sensazione, quello che noi chiamiamo spazio privato. Guarda, non a caso noi parliamo di queste cose quando accade qualcosa di pruriginoso. Certo. Il pelo delle dive improvvisamente ci fa scoprire che il cloud è qualcosa su cui bisogna comunque ragionare, va settato, non puoi dire sì subito, immediatamente. Si passa attraverso certe situazioni pruriginose, traumatiche e via dicendo, però questo porta a una riflessione di tipo superiore. I nostri spazi privati vanno più considerati come li consideravamo una volta, delle cose segrete che apre soltanto chi vogliamo noi. Il fatto che possiamo averli ovunque, comunque, in qualunque maniera, leggerissimi, velocissimi, però qualcosa dobbiamo lasciare sulla bilancia di questo vantaggio. No, certamente si sta ridefinendo l'idea di ciò che è privato, questo lo sappiamo, no? In qualche modo la televisione aveva annullato la differenza tra pubblico e privato per le persone famose, le nuove tecnologie, il computer, i social network hanno abbattuto la barriera tra pubblico e privato anche per noi, gente comune, insomma gente che non ha particolare interesse pubblico. Bisogna vedere come si comporterà le nuove generazioni, è chiaro che noi che ormai abbiamo una certa età, insomma, tendiamo a considerare private cose che probabilmente nel futuro non saranno più considerate private. Anche sì, bisogna dire, insomma, ultimamente c'è una maggiore attenzione delle persone a mettere online le cose. Ad esempio, è ormai noto che gli adolescenti usano pochissimo Facebook, ma usano sistemi che sono scarsamente tracciabili, molto più difficilmente tracciabili, come WhatsApp, per comunicare, per scambiarsi immagini tra di loro. Che però ormai, hanno più o meno lo stesso padrone, quindi comincia a essere un problema anche quello. Quello è vero, sì, però la tracciabilità di un sistema come WhatsApp è sicuramente inferiore rispetto a uno come Facebook. Resta meno lungo, insomma, la traccia, ed è più difficile da scovare eventualmente la foto che viene memorizzata, anche lì sicuramente in qualche cloud comunque. Diciamo che crescono i bisogni e crescono anche gli usi. Mai nessuno sarebbe immaginato di dover condividere aspetti così privati. Se abbiamo dalla storia della fotografia, di foto se le facevano le grandi dive del passato, ma erano dei cartoncini praticamente seppelliti nelle casseforti dei loro amanti, che uscivano le gambe della contessa Castiglione, apparvero non solo dopo quanto tempo, fu un gesto di grande arditezza, ma erano delle gambe nude dal ginocchio in giù praticamente, quindi la tendenza c'è sempre stata praticamente in questo. Sì, qui è interessante vedere come è cambiato il nostro senso del pudore in maniera connessa in qualche modo allo sviluppo delle tecnologie, insomma, della possibilità di veicolare con maggiore facilità le immagini. Sentiamo Carlo. Carlo, buongiorno. Sì, ciao Nicolè, ascoltami. Io non voglio, ho mandato solo un messaggio, dopodiché sono stato contattato. Allora, il discorso è questo qua: io ho 67 anni, sì, e veramente sono nato e sono cresciuto in una società, diciamo, di un moralismo incredibile, dove certe cose bisogna sempre nasconderle, proprio te le facevano, non bisognava vedere mai niente. Adesso veramente io, mi hanno dato quest'anno il computer, mio figlio, eccetera eccetera, e ho conosciuto delle cose veramente, sono entrate adesso che voi umani non aveste mai immaginato. No, veramente, ma vedo delle cose che veramente il mondo, secondo me, si è vuoto. Ma prima non pensavi che esistessero, cioè, ma questo moralismo qua, ma io ti dico la verità, lo dico a tutti, non me ne frega un cazzo. Sì, sono vado pezzo. Anche a vedere, può anche dirlo in maniera diversa, sì. Finalmente vedo i filmini pornografici a casa mia e mi piace, li guardo, non me ne frega un cazzo di quello che dico. Vabbè. Mettere che a 67 anni, si usa un po' meno di cazzo, magari anche meglio, sai, l'ora di pranzo, solo per questo. Sai Lumarel, hai presente Lumarel? Sì. Io sono Lumarel, mi piace gli ultimi anni della mia vita a godermeli, Quello che non ho fatto in 67 anni. Sta attento alle diottrie, perché a una certa età calano la svelta, solo per questo. Marco. Buongiorno. Sì. Salve. Prato, no, Lumarel. Lumarel felice nella Disneyland dell'autoerotismo, beato lui. Marco, buongiorno. Buongiorno. No, l'unica cosa che volevo dire... Mi sente? Sì, certo. Ti dite, oggi questi dati che noi forniamo sull'iCloud, le società li utilizzano per alcuni scopi, ma non sappiamo poi in domani per quali altri scopi potrebbero utilizzarli. Ma lei ha paura che di un uso illecito? Guardi, in questo siamo, penso, abbastanza graditi. Andrea Rossetti, che Apple dei dati nei nostri cloud non faccia un uso che noi non abbiamo, se stiamo attenti nelle informative della privacy che accettiamo ogni volta, naturalmente. È chiaro che la legge cerca di porre dei limiti all'uso legittimo che viene fatto di questi dati. La paura dell'ascoltatore è legittima, però mi sembra abbastanza lontana. Alla fine che interesse ha a violare, sì, Apple? È chiaro che le cose cambiano in un contesto in cui, se il contesto in cui vivessimo non fosse democratico, perché è chiaro invece che, ad esempio, che so, il governo di uno stato dittatoriale ha tutto l'interesse a vedere anche i documenti che sono in cloud riservati. Però appunto nel momento in cui viviamo una società occidentale in cui certi diritti sono garantiti al singolo cittadino, secondo me il rischio non è nullo, ma è abbastanza remoto. Secondo me aumenteranno, diciamo, i fogli elettronici che dovremmo firmare quando accettiamo di entrare nelle cloud. Questo sì, forse, perché sì, dovranno salvaguardare in qualche maniera. Imparare anche a spendere un po' di soldi per garantire la nostra privacy. Adesso siamo tutti abituati a spendere un po' di soldi per un antivirus, ad esempio, e in futuro ci dovremo aspettare di imparare a spendere un po' di soldi anche per pagare la nostra privacy. Grazie Andrea Rossetti, alla prossima.